coltivato col tritolo. Barattiamo anime e cuore in cambio di gettoni d'oro. Diamo sorrisi avvelenati a neonati, a bambine ed ammalati, a figli affamati, abbandonati e poi sacrificati sull'altare dello sbaglio, strafatti e ubriati, a ridere del mondo di sagome di gesso e poi ripetere chissà com'è successo. Posate cellulari, le carte di credito, posate anelli e pellicce, attendete l'esito. Posate carte firmate, le tratte pagate, la gioia, l'estate, le case intestate, gettate via l'orgoglio, tanto è solo un blef, è tutto un imbroglio, tanto basta il tempo di un solo gesto, tanto finirà presto. Perché di là sarai diverso, perché di là sarai diverso, perché di là sarai diverso, diverso. Perché di là sarà diverso. Intanto crescono i bambini e mille disagi, davanti a te le schermi arroventati dalle stragi. I disperati mordono sognando mille viaggi, canzoni di Natale miste a bombe su villaggi. La terra trema e il terrore ci divide, l'inferno ci deride, Dio piange e l'uomo ride, brindando alle morti di relitti e di sconfitti, con la voglia di sorridere spartendosi profitti. E dopo il buio scendi da quell'altare, dall'attico sul mare, prima che possa crollare, prima che un altro figlio pensi di massacrare la famiglia e di lanciarsi dal ponte di una statale. Posate passi, togliete tavole imbandite, vagoni di prenotazione, gradi che salite, perché resta il tempo di un solo gesto, perché di là sarà diverso, perché di là sarà diverso, perché di là sarà diverso, perché di là sarà diverso, diverso. Perché di là sarà diverso, sarà diverso. Perché di là sarà diverso, diverso. Perché di là sarà diverso, diverso. Perché di là sarà diverso, sarà diverso. Perché di là sarà diverso, sarà diverso.